piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Nuestro país se ha estado preparando para el enfrentamiento a la pandemia provocada por la aparición del nuevo coronavirus que afecta a más de 100 países en la actualidad. En el día de ayer, 10 de marzo de 2020, se identificaron 4 turistas italianos con sintomatología respiratoria que se encontraban hospedados en un hostal en la ciudad de Trinidad de la provincia de Santi Spíritus y que habían arribado por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el lunes 9 de marzo, trasladándose ese mismo día a Trinidad. Insomma, avete capito che era successo. 3 turisti italiani che erano andati scappati verso Cuba, naturalmente non potevano rinunciare, erano arrivati a La Habana il 9 marzo e sono stati beccati, erano anche positivi al coronavirus. Per loro era irrinunciabile la vacanzetta a Cuba, che certo non ci si va proprio per migliorare la propria lingua spagnola, ma ci si va probabilmente a fare gita mene. Per loro è irrinunciabile andare a Cuba. Devo dire che questo forse è l'episodio più eclatante, è vero, l'ho sentito poco fa anche alla radio. In questo momento sembra cambiato radicalmente il clima del paese. Improvvisamente gli italiani è come se avessero sempre svolto questo tipo di vita. File ordinate, chiunque ricorda agli altri di stare a un metro di distanza. Tutti sappiamo che si deve girare con i guanti, fare delle particolari, tenere delle particolari precauzioni e soprattutto tutti si stanno abituando a stare a casa. Vedo qualche segno di irrequietezza, comincio a sentire qualche collega che non ce la fa più stare a casa, gli manca la macchinetta del caffè, le chiacchiere con gli altri colleghi, quel clima in fondo social ludico che fa parte del nostro lavoro. Non fatevi sentire a dirlo troppo forte, che poi chi ci dà da lavorare ci dirà: ma io mica vi pago le vacanze, se lavorate lavorate e lavorate in queste condizioni. Sì, perché andare a lavorare, ci rendiamo conto oggi, fa parte anche di una nostra evasione sociale, non soltanto di una nostra dignitosa necessità di sentirsi parte della società civile. Beh, oggi voglio farvi un'altra proposta, visto che stando in questa edizione Home Edition, che poi non ha più niente di eccezionale, la maggior parte dei colleghi ormai trasmette da casa, la radio questo permette, per altri categorie dei lavoratori mi rendo conto che è molto più difficile. Per noi è possibile, cerchiamo al massimo di continuare a fare il nostro lavoro, dandovi la possibilità comunque di avere sempre a disposizione la radio, che è sempre stato il mezzo in tutti i momenti di difficoltà, in tutte le guerre, in tutte le angosce, di far sentire comunque che una voce c'è, che una voce che tiene il raccordo e tiene le fila di quello che accade nel mondo e cerca per quanto possibile di tenere le persone vicine, è la radio, e la radio continua a esserci. Oggi vorrei parlare un pochino del nostro tempo recluso, del nostro tempo fuori dalle nostre abitudini, che in fondo è la cosa di cui posso più parlare, stando io fuori dalle abitudini quotidiane. Molti ci stanno pensando, si sta cominciando a avere un'attenzione generale, soprattutto da chi produce intrattenimento, di occuparsi delle persone che stanno a casa. Alcuni editori come Mondadori o Condé Nast hanno proposto degli ebook e degli abbonamenti online gratuiti alle loro riviste, come alcuni giornali come Repubblica, La Stampa, Il Riformista, danno delle condizioni molto particolari, agevolate, per poter leggere i giornali online. Ma andiamo oltre, addirittura la nota piattaforma Pornhub, che è tra i più noti portali di pornografia, ha annunciato un'iniziativa, Forza Italia, We Love You, che dà agli italiani accesso gratuito alla versione a pagamento del sito. Ecco, la pornografia a pagamento di Pornhub oggi è gratuita, ma il fine nobile, oltre quello di dare solluchero ai poveri italiani chiusi dentro casa, questo promuove una ricerca in ambito medico attraverso, diciamo, l'intelligenza artificiale per la piattaforma Modelab. Quindi Pornhub si preoccupa di incrementare la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale, probabilmente pensa che sarà il futuro anche della pornografia online. Io oggi vi faccio una proposta. Immaginate che questa situazione, come la stiamo vivendo, che già per molti è normalizzata, possa avere comunque un ulteriore sviluppo. immaginiamo che ci verrà consentito comunque il minimo di sussistenza indispensabile, cioè avremo tutti da mangiare, avremo tutti assistenza medica, però dovremmo stare a casa. Però ci verrà concesso, questa è la mia ipotesi, è un'ipotesi che mi permette di capire quali possono essere le priorità di persone messe sotto stress. Questa occasione è unica e questa occasione la usiamo anche per capirci meglio, per dare una misurazione di quello che è il sentire della società in generale. Ecco, immaginate che vi venga messa a disposizione un benefit, un'ora al giorno potete fare quello che voi preferite nell'ambito però di tre precisi filoni. Ecco, questa è la domanda: quale scegliereste voi per un'ora al giorno? Cosa fareste? 800 24 00 24. In questi giorni ognuno di noi ha la sensazione di avere già visto in un film catastrofico quello che sta vivendo. Le misure restrittive del governo imposte alla popolazione sono limitanti, ma tutto sommato accettabili. Immaginiamo però che, come in un film, la situazione dovesse peggiorare e fossero necessarie ulteriori limitazioni e un razionamento radicale di tutte le risorse a disposizione. Ipotizziamo, ad esempio, che si concederà per ogni cittadino un benefit limitato a un'ora al giorno per usufruire di beni, servizi e contatti, anche familiari, dando per garantite le forniture alimentari e i medicinali. Voi a che cosa dareste la priorità? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se vorreste, per un'ora al giorno, 1. Possibilità di condividere l'intimità con una persona a vostra scelta. 2. Possibilità di avere la connessione a internet e poter comunicare con gli altri. 3. Possibilità di avere un'ora all'aperto, in sicurezza, ma in libertà. Non l'abbiamo scelte casualmente queste tre categorie, perché vogliamo capire se 20 anni di civilizzazione digitale ha cambiato qualcosa nelle nostre attese, nelle nostre attitudini. Quindi immaginate che vi venga detto: ti è assicurato cibo, ti è assicurata assistenza medica, puoi stare tranquillamente a casa tua, ci occupiamo del tuo benessere. Però per quello che riguarda le attività extra, quelle non indispensabili, c'è una limitazione. Non c'è più la rete internet per tutti, perché deve essere usata per motivi di ordine pubblico, di sicurezza. Mettetela come volete. Immaginate di essere nell'apoteosi di uno di quei film sulle catastrofi che ci piacciono tanto. Li stiamo vivendo come fosse normalità. Ecco, in questa ora potete occuparla secondo tre opzioni che vi diamo. Potete avere un'ora di intimità con una persona che voi scegliete. Una intimità può essere tutto, dal sesso estremo a tenersi per mano, a guardarsi negli occhi, ad annusarsi, qualunque cosa. Un'ora di intimità. E non mi dite le nonnine di 91 anni o i figli, perché i figli ce l'avete già dentro casa, le nonnine pure a disposizione, ve le sbaciucchiate come volete. Due, possibilità di avere la connessione a internet per poter comunicare con gli altri. Ecco, un'ora al giorno di internet. Oggi viviamo, sopravviviamo, voi mi ascoltate perché esiste internet, se no saremmo già più isolati. Ecco, internet, che ormai è diventata una nostra consuetudine a cui siamo abituati, ce lo possiamo avere soltanto un'ora al giorno, e quell'ora può essere importante per comunicare agli altri, per farsi sentire, per segnalarsi e vedere cosa fanno gli altri. Terzo, possibilità di avere un'ora d'aria. Per molti c'è questo senso di claustrofobia, non ce la facciamo più a stare dentro, vogliamo uscire, fare una passeggiata. Bene, terza opzione, l'ora d'aria. Vi andate a fare una passeggiata in un luogo naturalmente protetto, perché se tutti scelgono l'ora d'aria ricominciamo da capo, avrete possibilità nel vostro quartiere, in un giardino, in un parco, un'ora di libertà. Ecco, voi quale scegliereste? 800 24 00 24. Mirko Dettori, buongiorno. Buongiorno amici. Cioè adesso non strafare, Mirko. Ciao Gianluca, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, reclusi e recluse di tutta Italia. Parla solo al telefono. Mirko Dettori è un musicista, ha dovuto chiudere il suo locale a Roma, che è la Conventicola degli Ultramoderni, dove si fanno spettacoli di musica e di burlesque. Ha cominciato da un po' di tempo, da un giorno o due penso, a fare gli spettacoli da casa sua. Si inquadra lui con il pianofortino che suona, fa il suo programma di canzoni, il suo intrattenimento, in diretta Instagram, l'ho visto io, e gli ascoltatori, la gente da casa comincia a usufruire. Quindi immaginate, se voi foste per l'opzione 2, cioè avere la possibilità di un'ora su internet, avreste possibilità di incontrarvi con Mirko. Mirko, andrai avanti nei tuoi spettacoli, oltre, diciamo, l'oretta di pianoforte, si andrà anche al burlesque online? Guarda, quello che stiamo cercando di fare, che abbiamo capito, è che tramite le dirette Instagram si può anche ospitare un'altra persona, si divide lo schermo in due e a quel punto si vede l'altra persona in diretta. Quindi, diciamo, la diretta del nostro canale può essere anche veicolo di altri ospiti, quindi si può pensare all'idea di fare una sorta di piccolo varietà domestico. Certo, suonare e fare spettacoli dal vivo tramite social per noi è una condizione ovviamente angosciante e poco auspicabile, anche perché devo dirti, Gianluca, tu mi conosci, ho fatto della mia vita l'intrattenimento dal vivo in locali piccoli, notturni e il più possibile affollati. E ho sempre pensato, diciamo che è il luogo antitetico oggi ad ogni sicurezza. Esatto. Ecco, ma tu come la vedi? Diciamo, tornando Mirko a quello che è la nostra richiesta, secondo te, in attesa che chiamino gli ascoltatori all'800240024 e ci dicano in quale di questi tre filoni loro farebbero la loro scelta, immaginatevi in una situazione assurda in cui c'è un'escalation della necessità di sicurezza, si dice non c'è più la rete, perché la rete ha dei limiti e deve essere usata da chi in questo momento si occupa di arginare la pandemia, dovete stare sempre più isolati dal mondo, quindi chi sta a casa e ci sta. Però vi possiamo concedere un'ora testa. Ecco, in questa ora testa, secondo te, come sceglierebbe il medio italiano? A te converrebbe che facesse la seconda opzione, cioè l'ora di spettacolo, si creerebbe un palinsesto generale in cui tutte le persone come te farebbero spettacoli da casa, tu ti sei organizzato così. Beh, poi sai, io devo dirti, la mia condizione in questo momento è una condizione abbastanza fortunata, ho un terrazzino, quindi diciamo l'ora d'aria potrei rinunciare, sono a casa rinchiuso con una bellissima ragazza, quindi diciamo anche al primo punto potrei rinunziare e soprattutto diciamo sentendo il ruolo sociale di chi fa comunicazione in astratto, come fanno gli artisti, gli intrattenitori, no? Facciamo comunicazione, però non è che diamo informazioni, noi regaliamo un momento, cerchiamo di dare un momento di distrazione, di divertimento o anche solamente di... Quindi vorresti l'ora di internet, così te almeno avresti quell'ora, sarebbe come il tuo locale che fosse aperto, mi sembra chiaro. Per Luigi da Novara, buongiorno. Buongiorno, in base alla sua richiesta io avrei scelto la terza opzione, quella di avere un'ora d'aria da cui poter uscire e rivivere un attimino la serenità e la pace che in questi momenti le persone hanno un po' perso. Però le comunico, evidentemente lei come Mirko ha tutto quello che le serve sotto mano dentro casa, perché l'ora d'aria uscirebbe da solo in una città deserta o in un parco deserto, passeggerebbe come in una situazione post-atomica, cosa farebbe in quell'ora d'aria? Ma no, io per fortuna ho la fortuna di non vivere in città, vivere fuori dalla città, e per lavoro vivo in città. La nostra fortuna per chi vive fuori in città è scoprire un attimino le cose che la società della città non ci dà più. Sì, ho capito, ma lei deve pensare a una situazione d'emergenza. Non è che voglio insistere. L'ora d'aria, se lei apre la finestra, ha il paesaggio, le mucche, tutto quello che vedrà in campagna. Ma non sentirebbe la mancanza di avere una persona, vedere una volta al giorno almeno una persona cara, starci vicino, oppure per lei è più importante avere l'aria? Questo può essere, non è che dico che sia da escludere. Già in casa, lei mi ha chiesto cosa fa, la persona già cara, io ce l'ho in casa. Allora, lei è fra le persone che ha già tutto sotto mano. Diciamo, in questa prima parte la trasmissione l'abbiamo messo a punto. Ci sono delle persone che stando in casa hanno tutto ciò che necessita. Sono le situazioni stabili, in questo momento un'infinità di famiglie dicono: ma chi sta meglio di noi? Stiamo qui con i figli, vicini, ci vogliamo bene, abbiamo la giornata intera a disposizione, siamo bene. Ma il mondo non è fatto soltanto di queste persone. C'è chi le relazioni, le attenzioni, le persone con cui si vuole stare assieme ce l'ha fuori, ce l'ha lontana. Ecco, in questa ora d'aria scegliereste farvi una passeggiata, essere collegata a internet? Diamo per scontato che non ci sia internet, oppure naturalmente, come il nostro amico di Novara, farsi una passeggiata. Ci fermiamo un istante. Melog. In questi giorni ognuno di noi ha la sensazione di avere già visto in un film catastrofico quello che sta vivendo. Le misure restrittive del governo imposte alla popolazione sono limitanti, ma tutto sommato accettabili. Immaginiamo però che, come in un film, la situazione dovesse peggiorare e fossero necessarie ulteriori limitazioni e un razionamento radicale di tutte le risorse a disposizione. Ipotizziamo, ad esempio, che si concederà per ogni cittadino un benefit limitato a un'ora al giorno per usufruire di beni, servizi e contatti, anche familiari, dando per garantite le forniture alimentari e medicinali. Voi a che cosa dareste la priorità? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se vorreste, per un'ora al giorno, 1. Possibilità di condividere l'intimità con una persona a vostra scelta. 2. Possibilità di avere la connessione a internet e poter comunicare con gli altri. 3. Possibilità di avere un'ora all'aperto, in sicurezza, ma in libertà. 800 24 00 24, vi diamo tre possibilità. Voi immaginate un'ipotesi di aumento del livello necessario di sicurezza. Avete un'ora a disposizione in cui vi viene offerta la possibilità di fare quello che maggiormente ambite al di fuori della routine di stare chiusi dentro casa, anche con le famiglie, che ha le famiglie, o solo chi è solo. Noi vi diamo tre possibilità ipotetiche: stare con una persona che voi desiderate, che sta magari in un altro posto, che non può essere, che non può venire da voi o andare voi da lei, ma diciamo lo Stato si organizza per mettervi a disposizione questa persona per un'ora. Essere collegati alla rete, dando per scontato che la rete non c'è per tutti sempre, data la necessità, un'ora di rete, quindi potete navigare, comunicare con gli altri, informarvi dell'esistenza di centinaia di persone, se questa è la vostra attitudine, o in maniera molto più semplice, analogica, farvi una passeggiata. Guardate che non è peregrino questo sondaggio, vedo adesso notizie che stanno uscendo velocemente. In Italia, per merito o per colpa del coronavirus, è crollato uno di quelli che era i problemi su cui più si dibatteva, almeno fino a qualche tempo fa, che è il gioco online. C'è un calo del 75% dell'utenza delle slot machine, quelle nei bar e nei locali. La gente non gioca più d'azzardo nelle slot machine e rischieranno di chiudere. Per quanti anni ci siamo arrovellati sulla ludopatia? Ecco, la ludopatia, almeno nei locali dedicati alle slot machine, è crollata. Sta aumentando però quella online. Se ci fosse per paradosso soltanto l'ora al giorno, probabilmente molti sceglierebbero quell'ora per essere collegati e giocare con le slot machine. 800 24 00 24, slot machine o casino online, quello che volete. Giuseppe da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, io ero molto sintetico, avrei scelto il 2, l'internet, perché accede a ogni cosa. E l'ora d'aria la puoi prendere anche virtualmente davanti alla finestra, ma internet e la comunicazione con gli altri è molto, molto, molto importante e quasi fondamentale per sopravvivere, specialmente in questi momenti. Ecco, ma lei una cosa, Giuseppe, per capire, lei ha già in casa le persone con cui passare l'intimità, quindi immagino per questo non sì, desideri stare con un'altra persona. Sì, certo. Ecco, mi piacerebbe qualche volta però chiamasse formata qualcuno e dice: io sono solo a casa. Io in questo momento sono nella condizione di solitudine, c'è Tommy con me, mio figlio, ma se altre persone stanno a casa da soli, che magari hanno l'amore della loro vita, la loro passione, la persona che frequentano clandestinamente, perché esiste anche questa possibilità di esprimersi in maniera amorosa, non sempre di essere tutto la luce del sole, fidanzati, fidanzate, passioni, o anche semplicemente una persona con cui vogliono scambiare tenerezza, ecco, come fanno accetterebbero di barattare la possibilità di farsi una passeggiata, di andare in internet con il vedere questa persona. Riccardo da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Io sono a favore dell'ipotesi 1, perché essendo l'uomo un animale sociale, penso che comunque in un'emergenza del genere, con le dovute precauzioni, secondo me sarebbe giusto concedere almeno un'ora per le relazioni intime. Beh, questo mi sembra. Lei sceglierebbe questo, un'ora. Adesso non dobbiamo vederla come l'ora di sesso necessariamente, ma anche quello, perché no? Ma un'ora per avere accanto una persona che si desidera, che magari si immagina, si sogna, con la quale ci si manda messaggi, ma in questo caso non ci si manderebbe più messaggi perché la rete non c'è. Ecco, questa ora varrebbe, diciamo, l'idea di colorarsi una giornata. Una giornata sarebbe nell'attesa di vedere quest'ora, questa persona probabilmente. Marco da Gorizia. Sì, buongiorno. L'ascolto. Io sinceramente sarei per un'ora di libertà all'aperto. Anche per cercare di una cosa che abbiamo perso, probabilmente siamo diventati un po' tutti deboli nel senso che nessuno di noi sa vivere proprio con se stessi, no? Deleghiamo la felicità spesso ad altre cose, che sia un po' anche internet o che sia una persona che ci sta vicino, ma la felicità, come dice qualcuno, l'abbiamo dentro di noi. E per quanto mi riguarda, io opterei proprio per un'ora di libertà. Un'ora di libertà, lei fa parte comunque, per lei un'ora di passeggiata varrebbe qualsiasi incontro e qualsiasi verifica dei nostri contatti online. Angelo, da Catania. Sì, buongiorno. Buongiorno. Penserei anche all'idea di trascorrere un'ora almeno con una persona. Perché della libertà, tra virgolette, diciamo posso crearmela nella mia mente. Il collegamento internet, per quanto necessario, posso anche, diciamo, ovviare, per esempio, prendendo appuntamenti con questa persona, diciamo direttamente, magari con ma noi diamo per scontato che siamo in una situazione ancora più critica rispetto a quella che viviamo. Dobbiamo stare veramente tutti dentro casa. Non abbiamo nemmeno il conforto che abbiamo adesso comunque di poter usare in maniera indiscriminata la rete a nostra volontà, quindi la rete è contingentata e dobbiamo scegliere il nostro desiderio di relazione o di uscita dall'angustia di uno spazio chiuso può essere soddisfatto secondo tre opzioni: la passeggiata, quindi l'ora d'aria in senso reale, l'incontro con una persona, l'incontro fisico, reale, epidermico con una persona, o l'incontro con un'infinità di persone o di realtà attraverso la rete. Lei sceglie la persona. Sentiamo Angela da Napoli. Eccomi, buongiorno. Pasquale. Guardi, sì. Io sceglierei la rete perché ho i figli in Messico e per me è importantissima la rete. Con i figli così lontano, guardi, non c'è altra cosa che sceglierei. Ecco, però si rende conto, quando lei chiama i figli in orario decente, i figli sono a letto, o viceversa, la chiamano nel cuore della notte. Sì, no, va bene. Però varrebbe lo stesso. Quale sarebbe l'ora migliore per poter vedere i figli, secondo lei? Per poterli vedere, io li chiamo alle 5 del pomeriggio qui dall'Italia, e lì sono le 9 del mattino, si sono svegliati, stanno andando a lavorare e posso parlare, altrimenti anche la sera verso le 9. Quindi i suoi figli avrebbero comunque, lei dovrebbe condividere però questa, diciamo, questo desiderio, perché i suoi figli poi sarebbero costretti tutte le mattine alle 9 di averci la mamma per un'ora in videoconferenza. No, sono ma felici. No, non ci telefoniamo tante volte. Ammesso che lei faccia questa scelta, che il suo benefit sarebbe un'ora al giorno con i figli in Messico, loro però tutti i giorni alle 9 c'hanno la mamma che chiama, come stai, cosa fai, che colazione, con chi sei? No, li scoccerei, no, e poi tutti i giorni che ci diciamo sempre, no. Allora non mi ha risposto, lei non c'ha un bisogno di un'ora al giorno di internet per vedere i figli, questa è una cosa sporadica. Se le dicessi siamo isolati dal mondo, lei fare una scelta, lei la sua scelta me l'ha detto, è vedere i figli un'ora al giorno. Benissimo, lei alla rete può farci quello che vuole, perché non è prevista anche una scelta di navigazione. Lei comunque sceglierebbe la rete, una volta vedrebbe i figli, una volta farebbe qualcos'altro. Mi sembra finora la prima a fare questa scelta, diciamo, di tipo non tradizionale. Giovanni da Vercelli. Ciao, buongiorno. Sì. Io ho scelto la prima ipotesi, in realtà la scelgo in deroga per conto di mio figlio, se è possibile, nel senso che mio figlio ha 18 anni, noi siamo in zona rossa e so che in questo momento comunque il suo desiderio sarebbe quello di vedere la sua fidanzata. A lei generosamente offre un'ora di fidanzato a suo figlio per ogni giorno, mi sembra una scelta di amore paterno senz'altro ammirevole. Sì, immagino avere un figlio dentro casa che scalpita, che non può vedere l'amore della sua vita a 18 anni, è pesantissimo. Sarebbe per lei un grande sollievo se un'ora al giorno suo figlio si sfantazzasse con la fidanzata, con chi vuole lui, e evitasse di fargli il muso tutto il giorno. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog. Dando per garantite le forniture alimentari e medicinali, voi a che cosa dareste la priorità? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci se vorreste, per un'ora al giorno, 1. Possibilità di condividere l'intimità con una persona a vostra scelta. 2. Possibilità di avere la connessione a internet e poter comunicare con gli altri. 3. Possibilità di avere un'ora all'aperto, in sicurezza, ma in libertà. 800240024, ricordo che questo è Melog Home Edition, mi potete vedere dal sito di Radio 24 a casa mia, in mezzo alle mie cose, come penso che possa accadere ormai per la maggior parte dei miei colleghi che trasmettono da casa. La radio permette questo e ci sentiamo privilegiati di poterlo fare in serenità, senza eccessivi problemi, e sono molto grato a tutte le persone che tecnicamente mi permettono di farlo, fanno veramente miracoli, perché gestire più conduttori, ognuno da casa sua, da uno studio centrale, è veramente difficoltoso, me ne rendo conto, è un'immensa gratitudine. Anna da Verona, buongiorno. Buongiorno, sicuramente un'ora di tempo libero per dedicarmi al mio sport preferito, che è il golf. No, rinuncio a internet, rinuncio a vedere mio marito, ma sicuramente un'ora di sport. Ma cosa riesce a fare in un'ora? A tempo che la fanno scendere dal campo da golf, le danno le mazze, le danno il carico, cosa fa in un'ora? No, io ho tutto, prendo le mazze. Sì, ma in un'ora cosa fa? Quanto può giocare in un'ora? Mi faccio tre buche. Tre buche al giorno, levano il medico di torno, una cosa del genere. Sì, quindi. Esattamente. Il golf è uno sport meraviglioso, conosciuto pochissimo in Italia. Ma fa bene alle persone anziane. Conosco tante persone. Per le persone anziane è adatto il golf. Non ho capito. Dico, è adatto per le persone anziane. Per le persone anziane, per i giovani e per le persone di media età. Vabbè, è uno sport per tutti. È uno sport completo. Ho capito, Anna, è entusiasta del golf. Lei quest'ora al giorno di benefit se la giocherebbe in un campo da golf, si farebbe tre buche e tornerebbe a casa tutta contenta. Marco invece, buongiorno. Pronto, sì, sono Marco da Pianese. Un'ora al giorno, cosa farebbe lei se potesse scegliere? Guardi, io veramente mi fa abbastanza tristezza / rabbia tutte le persone che sono già a posto, come diceva lei, che hanno già tutto quello che però mica si può fare una colpa se uno c'ha tutto sotto mano. Io invece sono, come è il caso che diceva lei prima, io sono single, felicemente, cioè non sono single, abito da solo, vive da solo, una condizione felice, è a 4 km o 5, 10 di distanza, perché io abito da Piano, la mia ragazza è di Gironico, siamo 2 anni che siamo insieme. Mi manca già terribilmente il fatto di non poterla vedere. Ovvio, io sceglierei un'ora al giorno tutta la vita, tutti i giorni che lei possa venire da me. Guardi, le aggiungo ancora qualcosa. Prima. Le dico ancora qualcosa. Lei pensi quanto sarebbe privilegiato? Perché chi ce l'ha sotto mano, che convive, ha la persona amata sempre a disposizione, ci deve stare adesso tutto il giorno e chissà per quanto tempo, che è bellissimo, figuriamoci, quando ci si desidera, ci si vuole bene, è bellissimo, ma verrà il momento in cui alla fine si scocceranno di starsi sempre vicini col fiato addosso. Chi oggi ha un amore dislocato rispetto alla propria abitazione, beh, è fortunatissimo. Primo, lei non è obbligato a uscire quando non c'ha voglia. Secondo, non c'è bisogno di dire io voglio andare qua, tu vuoi andare là, non c'è discussione. Terzo, quell'ora che vi vedete, non rendete conto, vi si spalanca l'universo, sapendo che soltanto un'ora e fino al giorno dopo non c'è altro tempo a disposizione. Avrebbe una persona sempre innamorata, sempre appassionata, lei lo sarebbe altrettanto e il vostro amore durerebbe in eterno. E sarebbe una fortuna senz'altro. Marco, buongiorno. Buongiorno. Marco ha parlato? No. Oh, Giampiero, da Pordenone. Daniele, da Pordenone. Daniele, beh, Daniele, va bene lo stesso, non discrimino per chi si chiama Daniele. Daniele da Pordenone. Ok, io scelgo. Cosa sceglierebbe? L'uno. Quindi anche lei è la persona. Ecco, mi dica la sua situazione, così capiamo anche le circostanze di non totale allineamento alle norme che vuole che le persone, uno ce l'ha sempre dentro casa. Ecco. Lei come è messo dal punto di vista del desiderio di incontrare una persona, ce l'ha lontana, distante, a disposizione? Ma io vorrei scegliere di stare un'ora con mio figlio che ha 2 anni, che purtroppo in questi giorni dai nonni in un'altra provincia, sebbene io chiamo dal Friuli, è parecchio distante. Purtroppo il mio lavoro, che nell'ambito dell'agricoltura mi permette di stare all'aria aperta tutto il giorno, ma devo anche rimanere aperto perché sì, come bene di prima necessità. Ecco, lei ha toccato un'altra possibilità, perché noi quando diciamo di stare, di vivere l'intimità con una persona, abbiamo subito pensato a una persona con cui c'è un legame affettivo, amoroso, sensuale, ma anche un figlio. Tanti genitori sono distanti dai figli proprio per le necessità dovute alle quarantene, agli isolamenti, ai bisogni, diciamo, di tranquillità e sicurezza in un momento in cui c'è un virus nell'aria. Vedere suo figlio per un'ora al giorno per lei sarebbe la cosa più ambita. Questo lo posso capire. Ecco, allora la prima senz'altro, è molto chiaro. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io devo dire la verità, il buon senso mi porterebbe a scegliere l'opzione 3, perché forse effettivamente un'ora all'aria aperta di questi tempi, insomma, col fatto che non si può uscire, si può uscire solo per fare la spesa. Eh sì, però lei deve considerare l'opzione 3 e andare in una strada deserta, in un parco deserto, in una campagna deserta, perché uno non può vedere altre persone, è soli, comunque soli. Sì, no, ma infatti ho fatto una premessa, in realtà io sceglierei opzione 2, perché devo dire che al tempo d'oggi, insomma, non avere neanche la connessione internet a casa per tutto il giorno sarebbe veramente un problema. Ecco, lei come userebbe quell'ora di internet? Perché noi ci siamo già, abbiamo già analizzato alcune possibilità. La signora con i figli lontani lo userebbe per una videoconferenza con i figli, altri lo userebbero, secondo le notizie che stanno dando, per giocare online, perché hanno questa passione inestinguibile per il gioco, in quell'ora starebbero sempre sulla roulette online. Lei questa ora di rete come la userebbe? Ma io probabilmente per comunicare con amici, anche in maniera ludica, su WhatsApp, io penso che la utilizzerei. Anche perché lei dice una cosa giusta, nessuno considera il fatto che se non ci fosse la rete noi saremmo tagliati fuori da tutta quella moltitudine di persone che li chiamiamo amici, ma molte volte sono semplicemente dei conoscenti o persone con i quali abbiamo contatti virtuali. Ci mancherebbe tanto tutta un livello di relazione con me abbiamo metabolizzato, che per noi è totalmente normale, che non avremmo più. Quindi tutte le nostre relazioni online di qualunque tipo le riacchiapperemmo soltanto un'ora al giorno e ci mancherebbero come ci mancano le persone concrete. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Allora, velocissima, facciamo solo un istante. Allora, io sono una categoria a rischio, ho 69 anni, sono chiusa in casa da 2 settimane, mi faccio tutto online, mi faccio portare fuori dalla porta la spesa, eccetera, però io sono sola, quindi vorrei avere un'ora per vedere al giorno un mio figlio e un'altra ora, un altro giorno, l'altro mio figlio no. Che abita lontano. Ah, lei ha alternato, lei alterna secondo il numero dei figli le ore per vedere le persone in diretta. Anche oggi abbiamo finito, da casa mia, alla prossima.